Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente partiremo oggi dal G8, poco fa approvato un documento comune in cui ci sono anche degli elementi, degli spunti di carattere economico. Non si arriverà probabilmente a questo G8 a una definizione, come già ricordavamo ieri, dettagliata ed esaustiva delle regole. Il rinvio al G8 di Pittsburgh, però poco fa, per la precisione 10 minuti fa, il G14, e quindi G8 più G5 e altri paesi, ha approvato la dichiarazione sull'agenda globale, che contiene appunto i paragrafi economici sul rilancio dei negoziati di Doha e sull'impegno comune verso i paesi più poveri. In sostanza, oggi è la giornata dedicata al commercio mondiale, e di questo parleremo in apertura. Commercio mondiale che ha avuto una brusca frenata da settembre in poi. Si cerca di evitare le cosiddette barriere protezionistiche, quindi evitare che i paesi alzino, attraverso dazi o altri strumenti, delle barriere al commercio mondiale, perché questo vorrebbe dire protrarre più a lungo le difficoltà dell'economia. Di questo parleremo in apertura, anche perché la Cina è tornata invece a parlare di valute. Non è un mistero che Cina e Russia vogliano in sostanza non sostituire, ma integrare il ruolo del dollaro con altre valute, con un paniere, tra cui anche l'euro. E oggi la Cina è tornata sul tema, che già è emerso lo scorso 16 giugno a Ekaterinburg, al primo vertice dei cosiddetti BRIC, Brasile, Russia, India e Cina. E quindi quando i quattro paesi dissero in sostanza di volere un sistema monetario più diversificato. L'euro non è che ne abbia risentito molto, anche perché per ora siamo solo alle dichiarazioni, siamo a 1,39 nei confronti del dollaro. La notizia sui mercati oggi riguarda, più che la borsa, il petrolio, perché per la prima volta dal 26 maggio è sotto i $60 al barile. E questa è una buona notizia per soprattutto gli automobilisti. Sotto i $60 vuol dire essere a questo punto a $80 in meno rispetto ai livelli del petrolio di un anno fa, quando viaggiava intorno ai $120, $130, $140 al barile. La borsa, dicevamo, più 1% il FTSE MIB in recupero dopo i cali delle ultime sedute. FTSE All più 0,90, bene Pirelli più 4,5, Saipem più 3,3, Tenaris più 3%, Intesa più 2,6, Mondadori più 2,3, ST Microelectronics più 2,1, Fiat più 2% come Prismian, Unicredit più 1,6, Enel più 1,5, Snam più 1,3 e il Banco Popolare guadagna l'1,20% come Luxottica e Fondiaria Sai. Fronte opposto, in pregilo, dopo il rialzo dei giorni scorsi, il fatto che parteciperà ai lavori per allargare il canale di Panama ha fatto salire il titolo non poco. Oggi perde l'1,9% come UbiBanca e Parmalat. Bulgari meno 1,7%, Popolare di Milano meno 1,3% come A2A. Lo 0,90% è il calo di Autogrill. Ancora gli altri mercati vedono Parigi guadagnare lo 0,40%, Francoforte tra le migliori più 1,1%, Londra mezzo punto percentuale di rialzo. L'America però sta perdendo lo 0,3%. 349-238-6666 per i vostri sms. Oltre che di G8 ci occuperemo anche di obbligazioni emesse dai grandi gruppi italiani. Oggi è la volta di Finmeccanica, ma già ci sono state quelle di Eni ed Enel. Forti le domande, e allora sarà anche il momento per ragionare su queste emissioni di obbligazioni di gruppi forti, solidi, insomma, che hanno quindi un ottimo rating, come si dice in gergo, e vedere come si muove il mercato obbligazionario, visto che sicuramente la borsa non viene giudicata da molti risparmiatori un settore dove investire in questo momento. Ancora troppo alti i rischi e volatili le quotazioni. Poi parleremo nella seconda parte di quella che ormai è legge, visto che è stato approvato al Senato il cosiddetto DDL sviluppo, 154 voti a favore, dopo quattro letture, per cui è andato come una specie di pallina di ping pong dalla Camera al Senato, dal Senato alla Camera. 9 mesi per approvarlo, però è un DDL che vede al suo interno il ritorno del nucleare in Italia, l'arrivo della class action, la liberalizzazione delle ferrovie, questi diciamo i tre punti qualificanti del disegno di legge sullo sviluppo, che è uno dei collegati alla legge finanziaria. Ripeto, dal 4 novembre che se ne parla, però con diverse modifiche ha dovuto fare quattro passaggi, e anche sul fronte nucleare avremo un approfondimento, perché oggi il ministro Scajola ha detto abbiamo avuto l'ok da molti enti locali ad accogliere centrali nucleari, e il numero di Enel, Fulvio Conti, in una nota ha aggiunto: con il voto di oggi al Senato l'Italia compie una scelta storica e torna appunto al nucleare. Andiamo avanti poi con altri temi, mi riferisco alle notizie in breve che anche oggi riguardano il dato congiunturale macroeconomico a livello europeo. Oltre al petrolio abbiamo anche un nuovo minimo storico per quello che riguarda l'Euribor, all'1,02% il tasso interbancario di riferimento, quello che insomma usano le banche per ottenere denaro a prestito, mentre tornando al tema petrolio, oggi l'Eni ha fatto sapere di aver avviato la produzione di petrolio dal giacimento Thunder Hawk situato nella parte centrale del Golfo del Messico statunitense, nel Mississippi Canyon Block. Per la precisione si trova a circa 145 miglia a sud-est di New Orleans ed è profondo, il giacimento è in acqua, infatti a 1700 metri. Scoperto nel 2004, è uno dei più importanti del Golfo del Messico e, stando a quello che sono le stime, dovrebbe avere una capacità di trattamento di 45.000 barili di petrolio al giorno e circa 2 milioni di metri cubi di gas al giorno. In questo giacimento Eni ha una quota del 25%, gli altri partner sono Murphy Oil che ha il 37%, Statoil il 25%, e poi Marubeni Oil & Gas che ha il 12,5%. Tra l'altro il giacimento è stato sviluppato attraverso tre pozzi sottomarini collegati ad un'unità di produzione semi-sommergibile. Dicevamo dell'area euro e dell'andamento economico. Secondo la Banca Centrale Europea, nel suo bollettino mensile, l'economia dell'area euro tornerà a registrare tassi di crescita positivi entro la metà del 2010, e sempre la BCE ha ricordato che aver tagliato i tassi di interesse di 3 punti percentuali in soli 7 mesi sta sostenendo l'economia, e questo taglio si sta trasmettendo sui prestiti alle famiglie e alle imprese. Sempre la BCE continua dicendo che le misure prese sono sufficienti per riavviare l'offerta di credito, e poi per quello che riguarda l'Italia sottolinea come le misure anticrisi prese a sostegno delle banche e del sistema finanziario prese in Italia, se provocheranno negli altri paesi un incremento del 3-3,5% del deficit, in Italia invece saranno a impatto zero, vista l'assenza di aumenti di capitale o acquisizione di attività direttamente a carico dell'erario. Che vuol dire? Siccome l'Italia non ha dovuto comprarsi pezzi di banche, a differenza di altri paesi europei, Germania e Gran Bretagna soprattutto, queste misure a favore delle banche sono a costo zero. Una buona notizia, o mezza buona notizia, dalla Germania, perché a maggio le esportazioni tedesche sono tornate a crescere, anche se in misura minore rispetto alle attese degli analisti. Sono aumentate dello 0,3% dopo il meno 5% registrato ad aprile. Ancora sul fronte delle difficoltà economiche, Emma Marcegaglia è tornata a sottolineare oggi miglioramenti nell'andamento dell'economia, ma secondo il presidente di Confindustria abbiamo davanti ancora mesi difficili. Il giudizio che noi diamo è che qualche segnale di miglioramento c'è, soprattutto il dato sulla Germania è un dato interessante, no? Finalmente dopo tanto tempo la Germania, che è la vera locomotiva d'Europa ed è anche per noi il mercato di sbocco principale, sembra avere dei miglioramenti, quindi noi diciamo alcuni miglioramenti ci sono, però la crisi non è finita, insomma abbiamo ancora davanti dei mesi difficili. Così la presidente di Confindustria Marcegaglia al microfono della nostra Chiara Di Michele, e sempre sui temi italiani la Marcegaglia ha annunciato di avere scritto al presidente del Consiglio chiedendo una sospensione o un rallentamento delle regole di Basilea 2. Ripetiamo, sono quelle regole che danno dei rating alle aziende sulla base dei quali, dei voti alle aziende sulla base dei quali poi le banche devono decidere quale e in che modo operare un prestito, un credito. Sono regole europee. La critica che si fa a Basilea 2 è di ingessare troppo il giudizio della singola banca o della singola filiale rispetto a quello che, di essere troppo quantitative rispetto a un giudizio un po' più qualitativo, che in questo momento servirebbe. E come la Marcegaglia, intervenendo nell'assemblea degli industriali di Salerno, ha detto: abbiamo scritto al premier Berlusconi e al governatore Draghi per chiedere la sospensione per un certo periodo di tempo o perlomeno il rallentamento nell'introduzione delle regole di Basilea 2. E poi sul tema del decreto anticrisi, la Presidente di Confindustria lo ha promosso complessivamente, mi riferisco al decreto anticrisi varato di recente dal governo, ma ha chiesto alcune modifiche, per esempio l'anticipo al 2009, all'anno in corso e non più al 2010, degli effetti della Tremonti Ter, ossia della detassazione di parte degli utili investiti in azienda, e poi nessuna limitazione alle compensazioni, con un innalzamento da subito a 1 milione di euro. Ci sono alcuni provvedimenti che vengono incontro alle nostre richieste. Abbiamo però chiesto su alcuni punti delle modifiche, nello specifico sulla cosiddetta Tremonti Ter abbiamo chiesto che ci sia la possibilità di anticipare gli effetti, che in questo caso sarebbero solo sul 2010, ma possano essere anticipati già del 2009, gli effetti, diciamo, di sollievo fiscale, perché è adesso che abbiamo bisogno. Così come abbiamo anche chiesto l'ampliamento di alcuni settori, in questo momento sono fuori la parte, per esempio, degli autoveicoli, sono fuori la parte elettronica degli impianti, i computer, quindi abbiamo chiesto che ci sia un ampliamento dei settori che possono accedere. Ci siamo anche soffermati sul tema delle compensazioni dei crediti e dei debiti d'imposta. Il provvedimento così come è scritto non va bene, perché in realtà pone ulteriori limitazioni alla compensazione dei crediti e debiti d'imposta rispetto alla situazione attuale. Parla di una possibilità di ampliare il tetto, di alzare il tetto da 516.000 euro a 700.000 euro, ma non è certo in base se ci sarà la possibilità nel bilancio pubblico. Quindi invece noi qui vorremmo non limitazione alla compensazione e un innalzamento da subito a 1 milione di euro. Poi ci siamo ulteriormente soffermati sul tema dei crediti alla pubblica amministrazione. Quello che è stato fatto è un passo in avanti, ma rimane fuori tutto il tema dei crediti nei confronti degli enti locali, soprattutto per la sanità, che è poi la parte maggiore dei crediti. Su questo non ci sono soluzioni, quindi chiediamo invece che ci sia un'accelerazione dei pagamenti pregressi anche di questa parte dei crediti. E poi sempre la Presidente di Confindustria ha confermato l'incontro con il governo e con le banche già dalla prossima settimana. L'abbiamo parlato ampiamente ieri, la proposta è arrivata ieri all'Assemblea dell'ABI da parte del Ministro Tremonti di dare alle banche un'agevolazione fiscale per quello che riguarda la situazione difficile sul fronte dei crediti, quindi le sofferenze bancarie, come si chiamano in gergo, in cambio di una moratoria sulle scadenze dei crediti concessi alle imprese. Vedo già molti messaggi al 349-238-6666 sul tema del nucleare, del DDL sviluppo. Un po' di pazienza, ne parleremo alle 18.05. Andiamo avanti invece con le notizie di casa nostra, perché oggi c'è stata a Roma l'assemblea della Confagricoltura. L'agricoltura regge meglio di altri settori la crisi, ma non è fuori, e quindi il presidente Vecchioni ha chiesto strumenti di sostegno per garantire più liquidità alle imprese agricole. Lo ascoltiamo al microfono il nostro Savino Gallo. Abbiamo sottolineato quelli che a nostro avviso possano essere delle priorità agricole per affrontare la ripartenza del settore in un momento di contrazione dei prezzi all'origine e di un andamento produttivo che comunque preoccupa. Siamo assolutamente convinti che la liquidità sia per le imprese agricole oggi assolutamente necessaria e quindi l'ipotesi del Ministro Tremonti di un avviso comune, banche, imprese e governo, deve trovare l'agricoltura inserita nella moratoria, così è stata definita, degli oneri finanziari. La liquidità per noi significa superare anche un rischio patrimoniale per le imprese e consentire alle imprese in autunno di poter ripartire con le semine con maggiore tranquillità. Il Tremonti Ter va nella direzione giusta, soprattutto per rilanciare il sistema produttivo, ma deve essere esteso alle piccole e medie imprese che, per quanto ci riguarda, contemplano il settore agricolo che ha, come tutti sappiamo, un andamento legato alle caratteristiche biologiche delle produzioni e nello stesso tempo un regime fiscale che ancora oggi colloca l'agricoltura all'interno di un comparto con le sue specificità. Questa è la richiesta quindi del Presidente Confagricoltura Vecchioni, inserire anche le imprese agricole nella moratoria, nel tavolo 3. La risposta del Ministro alle politiche agricole e forestali, Luca Zaia. Penso che in questa ristrettezza economica sicuramente sarà una base di ragionamento. Questo non significherà che poi si possa tradurre nel breve in risultati concreti. La partita è in mano al Ministro Tremonti, il quale ha non solo questa, ha una nazione intera alla quale guardare. È un settore innanzitutto che ha i fondamentali, come si direbbe nel comparto della finanza. È un settore che ha dei valori unici, che sono quelli dell'identità produttiva. È un settore che non si deve inventare l'agricoltura, ma soprattutto noi la dobbiamo valorizzare all'interno di un mercato che oggi ci è ostico, cioè nemico. Gli agricoltori devono avere la giusta remunerazione, visto considerato che hanno dei costi di produzione elevati, direi quasi fuori mercato rispetto anche al mercato europeo, però sono giustificati da qualità e sicurezza alimentare. Quello che noi facciamo lo devono fare anche gli altri. Spesso i nostri agricoltori, i nostri imprenditori sono costretti a vendere al di sotto di questi costi di produzione in un mercato, anche quello europeo, che si dovrà adeguare. Adeguare ai nostri costi significa fare qualità e sicurezza alimentare, che noi sappiamo fare. Gli interventi sono la volontà di identificare sempre di più le nostre produzioni sui mercati, difendere fino in fondo il Made in Italy, visto e considerato che su 10 prodotti dichiarati Made in Italy, solo uno poi è effettivamente Made in Italy. Se consideriamo che l'export dell'agroalimentare vale 24 miliardi di euro, questi 24 miliardi potenzialmente li potremmo moltiplicare per 9. Così il ministro Luca Zaia. Noi adesso iniziamo a parlare del primo tema, la giornata odierna all'Aquila, o meglio insomma a Coppito, chiamatela come volete, dei G8, G8, G14, oggi infatti si sono congiunti chiaramente in maniera figurata gli 8 leader del G8 e gli altri 5 del G5. Per cui Brasile, Cina, India, Egitto, Sudafrica, Messico e poi Canada, Francia, Germania, Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Russia. Tema all'ordine del giorno oggi, il commercio mondiale, quindi non tanto le nuove regole per evitare quello che si è verificato durante la crisi, i cosiddetti Global Legal Standards, ma evitare che l'effetto della crisi sia anche quello di alzare barriere tra i vari paesi. Poco fa è terminata la conferenza stampa del presidente del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, e allora ascoltiamola in versione originale, perché ci è arrivata poco fa appunto la voce del direttore generale, del presidente, ma chiaramente è un refuso, il direttore generale del Fondo Monetario, Dominique Strauss-Kahn. On the global economic outlook, our view is that the financial market are stabilizing, that's a sign of the global economy is quindi not dice Strauss-Kahn che ci sono segnali che sia i mercati finanziari si stanno stabilizzando, sia che l'economia mondiale sta riemergendo dalla recessione. Sembra che sia stata evitata la pericolosa spirale temuta solo un anno fa. Nonostante questo, ha continuato Strauss-Kahn, dobbiamo ricordare che la ripresa sarà lenta e che ci sono ancora incertezze su quando la ripresa veramente si realizzerà. Dobbiamo continuare a lavorare sodo. E poi poi c'è anche il fronte valutario, come ricordavamo, perché la Cina vuole la riforma graduale del sistema delle valute, del sistema monetario, meno peso al dollaro, più altre valute all'interno di un paniere. Alessandro Melli, uno degli inviati del Sole 24 Ore all'Aquila, buonasera. Sì, buonasera. Allora Alessandro, iniziamo dalla bozza di dichiarazione congiunta G8 più G5, per cui è l'Egitto, molti ci chiedono ma perché G14, perché c'è anche l'Egitto, insomma. Ma dicevo G8 più G5 e Egitto, diciamo G6, bozza congiunta per la ripresa dell'economia globale ed equa, e poi ragioniamo anche di commercio estero. Alessandro. Sì, di fatto non c'è tantissimo di nuovo rispetto a quello che si è detto in queste settimane, in questi mesi, per quanto riguarda l'economia mondiale, nel senso che naturalmente si accentua con la presenza dei cinque dei mercati emergenti, in questo caso sei con l'Egitto, il fatto che si vuole che i benefici di una ripresa, quando arriverà, e si parla della seconda metà del 2010, naturalmente porti i suoi benefici non solo ai paesi avanzati ma anche a quelli emergenti, che per la verità fino adesso stanno crescendo più dei grandi paesi industriali. Direi che il punto di novità, se così si può dire, del comunicato è il fatto che rispetto al comunicato del G8 si insiste sul fatto che il Doha Round, cioè il negoziato per la liberalizzazione del commercio internazionale, andrebbe concluso entro il 2010 e che i capi di Stato di Governo riuniti qui all'Aquila danno mandato ai loro ministri del commercio perché si incontrino per cominciare a definire un'intesa di massima ai primi di settembre, quindi prima dell'incontro del G20 di Pittsburgh, che poi dovrebbe dare una specie di suo sigillo politico a questa intesa di massima. Naturalmente bisogna ricordare che questo tipo di dichiarazioni dai leader viene ogni volta che si incontrano, l'ultima è stata l'anno scorso a Washington in novembre, quando addirittura i leader diedero mandato ai ministri del commercio di chiudere tutto entro il dicembre, cioè entro la fine dell'anno scorso. Questa cosa ovviamente, come sappiamo, non è successa, quindi su queste sollecitazioni dei capi di Stato e di Governo vanno prese un po' con beneficio di inventario, perché poi quando si trovano i negoziatori attorno al tavolo le divergenze riappaiono e sì, c'è questo assenso politico, ma in realtà resta un profondo dissenso su tutti gli aspetti tecnici. Sì, ecco, quello che devo dire, va bene ricordare quel G8 come sta andando, ci mancherebbe, però per non essere un po' troppo agiografici, anche se lo ospitiamo noi non importa, resta un po' un'idea, Alessandro, di un G8 in cui i capi di governo si incontreranno, si conosceranno, questo va benissimo, però quanto alla ciccia, ai contenuti, adesso si rimanda a Pittsburgh, quindi sulle regole dei mercati finanziari, Global Legal Standards, dovrebbe arrivare il documento al prossimo G8 di Pittsburgh, sulla definizione del commercio globale, di non avere barriere, un commercio solidale ed equo, a Pittsburgh, cioè sembra quasi un po' un gioco che va a procrastinare ogni volta la decisione finale. Non si poteva arrivare a un documento già adesso di contenuti? La verità è che ormai il G8 ha un valore forse quasi simbolico, storico se vogliamo, cioè queste sono state le grandi potenze dell'economia mondiale, ma su tutta una serie di questioni, a partire dal commercio internazionale, ma che includono anche temi economici e non strettamente economici, come per esempio il clima, nessuna decisione rilevante può essere presa senza l'apporto quantomeno delle grandi economie emergenti, se non anche delle economie in via di sviluppo. Quindi è evidente che questi G8 insomma sono sempre meno significativi e la governance mondiale, come si dice, si sposta sempre di più verso dei consessi più ampi, dove abbiano diritto di parola a pieno titolo i vari paesi emergenti. Sì, scusa la domanda, però a questo punto non avrebbe senso, perché un G8 lo può anche tenere, però smetterla col G8, tanto abbiamo capito che senza la Cina, l'India e il Brasile, ma anche la ma anche il Messico, ma senza Brasile, Cina e India è inutile farli nemmeno questi vertici, passiamo subito al G11, al G13, al G14. Tu sai, sai come che queste, questo tipo di istituzioni, anche se non formalizzate, come il G7 prima, poi il G8, sono più facili da creare che non da eliminare. Raramente, un po' come certi enti dello Stato italiano. Un po' come gli enti inutili del nostro Stato, che sopravvivono per decenni, se non per secoli, alla loro funzione, alla loro utilità, e continuano ad esistere senza che effettivamente poi siano luoghi dove si prendono decisioni rilevanti. Credo che progressivamente anche il G8 stia scivolando verso questo tipo di soluzione. Se si arriverà a una sua abolizione definitiva, non lo so. Certo è che il vero potere decisionale si sta trasferendo sempre di più verso questi gruppi più ampliati, in cui ci sono delle potenze che ormai non possono essere più definite tali. Del resto, anche nelle istituzioni più diciamo consolidate da decenni, come il Fondo Monetario, il peso e l'influenza si sta spostando, anche se lentamente, verso paesi come la Cina, l'India, il Brasile, eccetera. Sì, voglio dire, senza nessun offeso per i canadesi, per il Canada, che è un paese bellissimo, però il Canada fa parte del G8, la Cina no, il Brasile no. Potremmo usare questo esempio anche per l'Italia, o per la Francia in alcuni casi. Per cui, insomma, quando l'economia mondiale si basa su Cina, India e Brasile, e la ripresa economica, se quando arriverà, e quel poco che sta già arrivando è tutta lì, è tutta tra la Cina, l'India e un po' di Brasile, sì, uno può fare la dichiarazione di intenti che vuole, ma poi non è lì che ci sono le leve. Altra domanda, e quindi concludiamo su questo, con questo taglio: il fatto che di nuovo la Cina sia tornata a dire noi vorremmo arrivare gradualmente a una riforma del sistema valutario, non possiamo più essere basati solo sul dollaro, riprende quindi oggi il ministro degli esteri cinese Ma Dauxu, ha ripreso quanto già annunciato lo scorso 16 giugno a Ekaterinburg, annunciato da lui ma anche da Brasile, Russia ed India, un paniere valutario. Se arriverà a qualcosa o anche qui rimandiamo tutto a Pittsburgh? Ma francamente qui non credo che c'entri tanto Pittsburgh, credo che c'entrino condizioni realistiche che vedono la Cina con 2.000 miliardi di riserve, 2.000 miliardi di dollari di riserve, e quindi i cinesi spesso su questa questione lanciano il sasso più per ragioni politiche, per far vedere che devono essere meno dipendenti dagli Stati Uniti, cinesi e con loro i partner come Brasile, Russia e India, i cosiddetti BRIC, insomma. Poi però i cinesi sono anche i primi a ritirare la mano, c'è una dichiarazione di questo genere, poi ce n'è una che dice che in fondo la gestione delle riserve non cambierà, perché i cinesi appunto stanno anche molto attenti a non veder deprezzare le loro ingenti riserve di dollari, alle quali fino a questo momento una grande alternativa non c'è. Non dimentichiamo che i cinesi stanno cercando di affermare la loro moneta anche a livello internazionale, però lo yuan per il momento non è ancora convertibile. Eh sì, quindi è inutile chiedere un paniere se poi non converti la tua valuta. Grazie Alessandro Merli in collegamento con noi dall'Aquila. Adesso il metodo della pubblicità, leggo alcuni sms, ma insomma non siate così scettici, all'Aquila ci sono i grandi della terra e vi saranno anche scelte di valore. Nessuno ha detto il contrario, si ragionava sui contenuti di carattere economico emersi da questo G8 per ora, e al di là delle dichiarazioni di intenti non c'è ancora non ci sono regole stringenti, non ci sono regole da ottemperare, da seguire. Se ne riparlerà a Pittsburgh, chiaro che c'è un lavoro anche preparatorio, però sul fronte economico-finanziario secondo me qualcosa in più poteva uscire, giudizio personale che conta nulla. D'accordo invece con molti ascoltatori sul fronte della politica estera in senso più ampio, quindi clima, ma non solo, anche relazioni internazionali, beh lì in effetti le dichiarazioni pesano, e pesano e come. Di 17:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la borsa e poi passare a queste interessanti emissioni di obbligazioni. Interessante soprattutto il fatto che sul mercato la richiesta sia molto alta, più alta dell'offerta. Mi riferisco a quelle di Eni, di Wind e adesso anche di Finmeccanica, sempre in attesa delle prossime emissioni di Enel e forse anche Telecom Italia. La borsa, dicevamo, giornata che si è chiusa comunque positivamente per i mercati. Milano tra le migliori, più 1,2% sul FTSE MIB, più 1% sul FTSE All. Parigi più 0,5%, Francoforte più 1,3%, Londra più 0,3%. L'America adesso è invariata. Euro a quota 1,40 sul dollaro e i titoli. Per quello che riguarda i migliori oggi sul listino, Pirelli più 4,5%, Saipem più 3,3%, Tenaris più 3,1%, Intesa più 2,7%, STMicroelectronics più 2%, anzi scusate, più 2,5%, e ancora Fiat più 2,1% e Prismian più 2%. UniCredit guadagna l'1,97%, Fondiaria l'1,94% e Mondadori guadagna l'1,9%. Enel più 1,7%, Snam più 1,4%, Mediobanca più 1,1%, Banco Popolare più 1% e Campari guadagna l'1,07%. Sul fronte opposto Bulgari perde il 2,3%, Impregilo il 2,2%, UbiBanca il 2%, Parmalat meno 1,7% come la Popolare di Milano, lo 0,7% lo perde a 2A. E allora, come sempre, commento con Radio Corriere Sole 24 Ore. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Partiamo da Pirelli, che oggi ha fatto un più 4,5, il miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Sì, per Pirelli si tratta soprattutto di un rimbalzo dopo che il titolo aveva perso oltre l'11% nelle ultime 5 sedute. Gli acquisti tuttavia sono tornati un po' su tutto il comparto del settore auto e del settore gomma. Sono andati bene oggi infatti anche i concorrenti di Pirelli, sia Michelin ha chiuso in progresso e anche Continental che ha guadagnato oltre il 3%. Per quanto riguarda il resto del comparto auto, oggi si è mossa abbastanza bene anche Fiat, che ha chiuso in rialzo del 2,13%. Eh sì, in recupero molti titoli che hanno sofferto. Tra i bancari, bene Intesa più 2,6%, Unicredito più 2%, Mediobanca più 1,1%, Banco Popolare più 1,1%. Sto dimenticando forse qualcosa, ma insomma i principali sono questi. Sì, i bancari oggi si sono mossi tutti in generale progresso, anche qui pesa soprattutto il rimbalzo più che ragioni specifiche. Infatti per i trader si tratta soprattutto di movimenti tecnici dopo i cali registrati nelle ultime sedute, ma c'è anche chi non esclude che per quanto riguarda l'Italia a dare là gli acquisti possano avere in qualche modo influito le parole del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che ieri all'ABI ha evocato la possibilità di sconti fiscali per le banche in cambio di una moratoria dei crediti. Ancora sui titoli, proprio perché i bancari oggi bene sono andati, fa così un po' specie vedere il calo di UbiBanca meno 2% e Popolare di Milano meno 1,7%. Su BPM abbiamo una sorta di indiscrezione che ha accelerato le vendite sul titolo, perché appunto secondo quanto aveva ricostruito Radiocore ieri, l'istituto sta lavorando per raggiungere un accordo nel settore della banca assicurazione con i partner francesi del Crédit Mutuel. L'operazione prevede che bisogna risolvere prima di tutto la joint venture che oggi BPM ha con Fonsai, BPM Vita, quindi bisogna riacquistare il 51% in mano a Fonsai per poi stipulare un nuovo accordo con col Crédit Mutuel. Nel 2006, quando era entrata Fonsai, il suo 51% era stato valutato circa 104 milioni di euro. La prospettiva che il Banco Popolare debba versare dei soldi a Fonsai ha fatto in qualche modo perdere il titolo, sì. Mentre al contrario ha guadagnato Fondiaria Sai. Ultimo titolo che vorrei analizzare con te in pregilo, perché ieri abbiamo commentato, poi oggi c'è su tutti i giornali, la notizia che nella gara per ampliare il canale di Panama Impregilo era messa bene, avrebbe presentato assieme in una cordata con altri partner l'offerta migliore. Oggi però mi sembra che sia prevalsa la prudenza, visto che il titolo perde il 2,1%. Sì, oggi il titolo titolo ha perso il 2,16% ed è prevalsa la prudenza nonostante l'offerta presentata dall'accordata di cui fa parte in pregilo insieme anche alla spagnola Sacyr abbia presentato l'offerta migliore sia da un punto di vista economico che da un punto di vista tecnico. Gli analisti osservavano che in qualche modo nulla è ancora deciso, quindi si tratta ancora di una fase preliminare, e sottolineavano una giusta prudenza dei mercati, una giusta prudenza che però non si è vista in Spagna, dove Sacyr invece ha guadagnato il 12% oggi, e quindi insomma un movimento in qualche modo difficile da spiegare quello di Impregilo oggi. Grazie Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, le informazioni per chi è in viaggio, poi dalle azioni alle obbligazioni corporate, ossia quelle emesse da soggetti privati, ripeto, Eni, Wind, adesso si è chiuso anche il collocamento di quelle Finmeccaniche, in attesa di sapere se anche Enel e Telecom le emetteranno. minuti. Allora, le emissioni obbligazionarie di soggetti privati, i cosiddetti corporate bond. Oggi si è conclusa infatti la prima emissione obbligazionaria a tasso fisso per un valore di 800 milioni di dollari di Finmeccaniche. Le ha collocate infatti sul mercato statunitense, due tranche, 500 milioni di dollari con scadenza decennale e una cedola lorda, quindi quello che si guadagna, pari al 6,25% con questi tassi, è un livello molto alto. Poi una seconda tranche di 300 milioni di dollari, scadenza 30 anni, cedola pari al 7,37%. Siamo in collegamento con il direttore finanziario di Finmeccanica, dottor Alessandro Pansa, buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. E buonasera anche, grazie a Simone Filippetti del Sole 24 Ore. Buonasera Simone. Buonasera a voi e agli spettatori. Allora, dottor Pansa, per restare su Finmeccanica, poi allargheremo il ragionamento alle altre emissioni obbligazionarie dei grandi gruppi, questi soldi a cosa vi servono? Ma questi soldi servono prevalentemente per tecnicamente, tatticamente, per rimborsare una parte di un finanziamento a breve termine che Finmeccanica aveva raccolto nel luglio del 2008 per finanziare l'acquisizione dell'americana DRS Technologies. Finmeccanica ha sempre avuto un indebitamento strutturalmente a lungo termine, come deve essere, perché è un'azienda che lavora, è un'azienda caratterizzata da un'elevata intensità di capitale, una elevata dotazione di alta tecnologia e contratti a lungo termine, e queste tre caratteristiche non richiedono niente altro e niente di meno che una struttura di debito caratterizzata da scadenze lunghe. L'acquisto di DRS, anche in virtù delle condizioni contrattuali che erano state a suo tempo pattuite, richiedeva la necessità di disporre di finanza a breve. Avevamo raccolto per il tramite di un gruppo numeroso di banche 3 miliardi e 200 milioni di euro, peraltro tassi molto convenienti, che però stridevano in una struttura di capitale orientata a lungo periodo. E per questo motivo abbiamo incominciato a partire dal novembre del 2008 una serie di operazioni di raccolta sui mercati internazionali, euro, sterlina e ora dollaro, al fine di consentire un potenziale, un progressivo rimborso di questo. Quindi, se ho ben capito, dottor Pansa, buona parte di questi 800 milioni di dollari che avete raccolto come prestito obbligazionario sul mercato americano serviranno a pagare il prestito bancario a breve, quei 3 miliardi e 2 che avete utilizzato per comprarvi DRS Technologies. Io lo ricordo, un'acquisizione molto grossa che avete fatto in America, è un gruppo operativo nel settore delle tecnologie militari ma anche civili. Domanda: perché avete fatto l'emissione obbligazionaria negli Stati Uniti? Beh, dunque, i motivi sono fondamentalmente due. Il primo è che avendo noi degli asset denominati in dollari, cioè le attività in dollari, cioè la prestazione di DRS, ha certamente senso avere delle passività denominate in dollari, anziché passare il tempo a cercare di riuscire a cercare di calcolare i rischi di cambio, le variazioni sui cambi e infilarsi in miliardi di dollari di derivati, no? È molto meglio avere attività in dollari e passività in dollari. Mi sembra un atteggiamento un po', come dire, vecchio stampo, ma che devo confessare paga sempre. sempre. Quindi poi avere in un bilancio un segno più in dollari e segno meno in dollari, così l'effetto cambio è che noi non l'avevamo mai fatto, non avevamo mai entrato nel mercato dei dollari e ritenevamo che fosse il momento per riuscire a farlo. Volevamo cercare un'emissione a lunga scadenza, oggi un'emissione a 30 anni, che è la più elevata scadenza che si possa trovare sui mercati, la si trova solamente sul mercato del dollaro statunitense. Ultima, ed è questo motivo per cui abbiamo fatto questa cosa. Ultima domanda, anzi due domande assieme. Pensate, visto il successo, o se ho ben capito tre volte l'ammontare offerto, di ripetere questa operazione? E soprattutto, secondo lei, il motivo per cui si è arrivati a una domanda così alta, tre volte appunto quanto offrivate? Ma dunque, il motivo è semplicemente che noi siamo convinti del fatto che Finmeccanica sia un buon creditore, un buon debitore, un debitore solido, sano, anche al di là dei buoni rating che noi riceviamo. Pensiamo che il nostro sia un settore certamente meno soggetto all'andamento del ciclo e di conseguenza la nostra struttura patrimoniale, la struttura finanziaria garantiscono il creditore, l'investitore non solo sul breve ma anche sul lungo periodo. Questo è il primo motivo. E questa è la ragione per la quale riteniamo che abbiamo avuto una buona domanda. Quanto al fatto di replicare questa emissione, beh, non lo so. È chiaro che noi avremo ancora da finanziare rimborsi che tra il 2010 e il 2011 ammonteranno a circa 1,2 miliardi di euro. Sicuramente andremo sul mercato, su quali mercati, quando e a quali tassi, onestamente non lo so. Ci auguriamo anche che anche qualche operazione di emissione o di vendita di asset che è in corso di definizione ci permetta non solo di rifinanziare del debito ma anche di rimborsare una parte. In una battuta, perché siamo in conclusione, come mai avete offerto queste obbligazioni solo agli investitori istituzionali e non anche ai privati, al retail, come si chiamano in gergo? È una vecchia storia. Negli Stati Uniti un debitore estero, un corporate estero, non può, se non vendere a prezzo di operazioni drammatiche, compiere operazioni di questo genere. E questa è un'emissione che è riservata al mercato americano, ma non credo ci sia mai stato un emittente estero che ha offerto obbligazioni al risparmiatore privato statunitense. Quindi lei gentilmente mi sta dicendo che ho fatto una domanda un po' idiota. Le rispondo che i mercati finanziari sono complessi. Sto scherzando. Se io fossi un investitore privato, anziché investire direttamente in obbligazioni corporate, mi cercherei un bel investitore istituzionale, un bel fondo di investimento che investisce in obbligazioni corporate e io metto i miei soldi. No, ma stavo scherzando. È esattamente quello che io faccio. È il motivo per cui lei fa il direttore finanziario e io no. Comunque, grazie a Alessandro Panza, direttore finanziario di Finmeccanica. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Prima di arrivare al DDL Sviluppo, quello che è legge che introdurrà il nucleare in Italia, la class action e quant'altro, vorrei concludere l'approfondimento sulle emissioni obbligazionarie dei grandi gruppi, anche perché è una domanda che spesso ci arriva: ma dove mettiamo i soldi in questo periodo? La borsa è troppo volatile. Non è, e sono d'accordo, tutti dicono che si è fuori dalla parte peggiore, ma la crisi è tutt'altro che finita, i tassi di interesse sono a zero di fatto o giù di lì, per cui i rendimenti nei depositi bancari sono ai minimi storici, le stesse obbligazioni di Stato, BOT, BTP, CCT hanno rendimenti che, seguendo i tassi di interesse europei e della BCE, sono rendimenti minimi di pochissimo, forse nemmeno di nulla, superiore all'inflazione. Simone Filippetti, è per questo che, se noi andiamo a guardare le emissioni obbligazionarie sia rivolte solo alle banche, quindi possono comprarle solo gli investitori istituzionali, come si dice in gergo, ma anche quelle rivolte ai normali cittadini, e penso all'ultima dell'ENI, vanno tutte e sono tutte andate benissimo. L'ENI addirittura ha anticipato al 22 giugno la chiusura dell'operazione, doveva chiudersi il 3 luglio. Tale è stata la domanda per 6 miliardi di euro con 2 miliardi offerti, quasi tre volte, ed era dal 95 che l'ENI non faceva un bot destinato a tutti noi. E tra l'altro si poteva scegliere tra tasso fisso e tasso variabile. Wind ha lanciato per gli istituzionali a fine giugno un'altra 2 miliardi e 7 di obbligazioni, 8 anni, anche qui due volte domanda, due volte l'offerta. Abbiamo visto che di Finmeccanica anche in questo caso domanda, due volte l'offerta. Il motivo di tutta questa corsa ai cosiddetti corporate bond? È proprio vero, è stata una corsa. In Italia in 6 mesi abbiamo avuto un controvalore di 10 miliardi di euro di emissioni, e da sole sono quasi quanto tutto il 2003, e se continua così noi chiuderemo come il 2001, che fu un anno record per l'emissione di corporate bond in Italia. La gente ha paura di investire in azionari nonostante le rassicurazioni, perché il mercato è molto volatile, e i bond sono tornati a essere l'unica alternativa agli occhi dei risparmiatori, l'unica alternativa valida per avere, per così dire, il vantaggio di un'emissione quantomeno sicura, perlomeno più sicura dell'azionario, e dei rendimenti che almeno proteggono il potere d'acquisto. Come tu ricordavi, i bot attualmente non coprono nemmeno l'inflazione, quindi investendo in bot in realtà uno sta decrementando il proprio patrimonio. Come, per quello che riguarda invece chi queste obbligazioni le emette, e quindi in questo caso Finmeccanica, Wind, Eni, poi vedremo le altre ipotesi, trovano più conveniente cercare questi soldi sul mercato retail istituzionale, pur offrendo interessi? Nel caso di Finmeccanica era 6% e passa, 6,25, l'Eni l'ha collocato con due diverse modalità, ma insomma intorno al 4% il fisso. È più conveniente per loro raccogliere soldi in questo modo che non chiedere alle banche? Questo è il tema su cui tutti si stanno domandando. A livello globale si può dire sì, è vero. Oggi, visto il credit crunch, vista il fatto delle banche che hanno stretto i rubinetti del credito alle imprese, le aziende hanno trovato questa via alternativa di andare sul mercato dei capitali, quindi emettere nuovo debito e venderlo sul mercato. Per quanto riguarda l'Italia, il discorso è un po' più particolare, perché la maggior parte delle emissioni che abbiamo visto, specialmente il caso di Eni, bisogna ricordare che queste sono grandi aziende pubbliche, quindi di fatto è come se io compro, sì. Però quella a livello di azionario, ma a livello di emissione, le agenzie di rating che le devono giudicare, certo, le equiparano al debito di uno Stato sovrano. Cioè l'emissione dell'Eni per un'agenzia di rating è come dover giudicare la solvibilità dell'Italia. È chiaro quindi che il rating è massimo, perché gli Stati per definizione non possono fallire, tranne i casi dell'Argentina, però diciamo che mediamente siamo a livelli di massima sicurezza. E quindi l'emissione, come nel caso dell'Eni, è come comprare un bot che rende molto di almeno più. Almeno due volte in più, certo. Sì, quindi, e questo spiega il motivo del grandissimo successo, e questo spiega come da qui a fine anno mi aspetto che ci saranno molte aziende che lo faranno, specialmente le aziende che hanno un buon rating, perché chi ha un basso rating deve pagare. Wind, che nonostante che è andata sul mercato istituzionale, ha pagato un interesse del 12%, siamo 12%. High yield, ma Wind ha un rating da è una singola B+, ed è quindi un junk bond. Ecco, su quello, alla luce del tuo ragionamento, fermo restando che come battuta mi verrebbe da dire che forse l'affidabilità di Eni quanto a rating è anche superiore a quella probabilmente di italiano, nel senso dell'Italia, perché operare nel petrolio è una garanzia per i decenni a venire. Ma insomma, le prossime emissioni possibili, si fanno due nomi soprattutto. Sì, Enel, perché Enel ha chiuso di recente su un successo l'aumento di capitale, però ha ancora un indebitamento molto elevato, figlio della maxi acquisizione fatta in Spagna pochi anni fa con Endesa, creando questo grande polo dell'energia. E è chiaro che se Enel emetterà un bond, già da oggi si può dire che sarà un successo assicurato come quello dell'Eni, perché chiaramente si tratta di un'emissione a zero rischio, chiaro. Ecco, con un rendimento comunque soddisfacente per i risparmiatori. Ma anche Telecom Italia è un'altra azienda di quelle candidate a poter emettere un bond sul mercato. Per cui è la possibilità per le grandi aziende italiane, soprattutto quelle a controllo pubblico o grandi aziende molto, molto solide, di poter ricorrere ai bond. E quindi qualcosa sul mercato dei capitali, quindi degli investimenti, dei risparmi, si muove, e si muove soprattutto grazie ai grandi gruppi. Tu citavi giustamente il caso di Wind, vedo che molti ci scrivono al 349-238-6666, ma come il 12%? Sì, ma tanto non era rivolto a noi. No, era rivolto alle banche. Solo agli istituzionali. Per il pubblico risparmio non poteva accedere. No, nessuno di noi avrebbe potuto comprarle, quelle obbligazioni. Grazie a Simone Filippetti. Grazie a voi. E riprendiamo invece anche la cronaca di questo G8, perché è arrivata anche la voce al microfono del nostro Vincenzo Minetta, del ministro degli esteri Franco Frattini. poco fa, accordo sul Doha Round, non sto entrando nella parte tecnica, significa commercio mondiale, accordi sulla libertà degli scambi commerciali a livello mondiale per evitare barriere protezionistiche, accordo raggiunto dal G8 più i paesi del G5 più l'Egitto, ecco perché si chiamano G14, ma ci sono anche i MEF, Australia, Corea del Sud e Indonesia. Sentiamo Frattini al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. È una dichiarazione che attendevamo da anni. Si è fissato l'obiettivo di chiudere l'accordo sul commercio mondiale entro il 2010, cioè un target estremamente ambizioso, e si è dato mandato ai ministri del commercio dei paesi interessati di riunirsi addirittura prima di Pittsburgh, cioè all'inizio dell'autunno, per affrontare in dettaglio questo dossier e per preparare la strada all'accordo del prossimo anno. È un qualcosa che io credo apra la strada anche ad un nuovo metodo di concepire i rapporti con i paesi poveri. Tutti sanno che se liberalizziamo di più il commercio, se consentiamo la circolazione dei prodotti dai paesi poveri ai paesi ricchi, senza sacrificare le economie dei paesi più ricchi, noi contribuiamo in modo enorme alla strategia di aiuto per i paesi più poveri. E poi dichiarazioni sulla necessità di sostenere una ripresa forte dell'economia e quindi di riabilitare alcuni settori bancari di alcuni paesi, sempre come dichiarazione del G14. E poi anche le exit strategies, come si chiamano in gergo, ossia le strategie con cui uscire, da approntare quando la crisi sarà ormai nella sua parte finale. Adesso siamo, diciamo, forse un po' oltre la metà del guado, e tutti i governi sono andati d'accordo nel iniziare a preparare delle strategie d'uscita, che poi vogliono dire sostanzialmente come tornare come rientrare nei conti pubblici, visto quanto è costato alle casse dei vari stati sostenere le banche e il sistema finanziario, tornare a rialzare i tassi di interesse, insomma tornare a una situazione un po' più normale rispetto a quella che si è generata da settembre in poi. La liberalizzazione delle ferrovie, l'arrivo della class action, ossia la possibilità di fare ricorsi collettivi, cause collettive, il ritorno del nucleare in Italia, sono questi i punti qualificanti del disegno di legge sullo sviluppo, oggi definitivamente approvato al Senato dopo un iter un po' lungo, difficile, dal 4 novembre che è in discussione, ha fatto 4 passaggi, ande e rianda, Camera e Senato. Comunque legge, i temi principali sono questi, sentiamo un primo commento del Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola. Dopo i provvedimenti per l'emergenza passiamo alle riforme strutturali, una nuova politica energetica per rendere il Paese più moderno con minor costo dell'energia, una nuova politica industriale per agevolare e semplificare la vita delle imprese. Questi quindi i principali temi del DDL sviluppo, e noi ci concentriamo oggi, perché della class action poi abbiamo già parlato, se ne occupa Deborah Rosciani, così come della liberalizzazione delle ferrovie, ma ormai i soggetti sono due, del ritorno del nucleare in Italia. Allora, in pole position c'è l'Enel, anche perché ha firmato un accordo con la francese EDF, per cui si vuole sviluppare le centrali nucleari in Italia. L'obiettivo comunque, non solo di Enel, in generale, è arrivare al 25% di produzione energetica da nucleare sul 100% complessivo. Attualmente, come tutti sanno, siamo a zero. E infatti c'è un commento già positivo del numero uno di Enel, Fulvio Conti, che dice: con il voto di oggi al Senato l'Italia compie una scelta storica e torna al nucleare. Ma altri, chiamiamoli così, pretendenti, soggetti interessati, guardano con interesse a quello che oggi il Senato ha approvato, e mi riferisco per esempio a Edison, al gruppo Edison, che avendo tra gli azionisti, oltre Transalpina, anche EDF, che è l'Enel, diciamo, francese, la Francia è uno dei paesi che ha il maggior numero di centrali nucleari, ne ha 59 nel suo territorio, ha anche quanto azionista di riferimento un certo know-how, una conoscenza del settore nucleare. Ringrazio, allora saluto per essere in collegamento con noi Umberto Quadrino, che di Edison è l'amministratore delegato. Buonasera, dottore. Buon pomeriggio a voi. Intanto mi confermi che è vero che anche voi siete, insomma, interessati, io ho detto pretendenti, ma vi piacerebbe entrare nella partita, e poi vediamo di capire alcune cose anche tecniche. Ma certo, la Edison, come tutte le aziende che lavorano nel nostro settore, sono molto interessate allo sviluppo della fonte nucleare come logico completamento del proprio portafoglio di generazione, e in più la Edison ha nel proprio azionariato EDF, che è il più grande produttore di energia nucleare del mondo, quindi ci sentiamo naturali candidati a questo programma. La parte più tecnica, vedo già molti messaggi al 349-238-6666, c'è chi dice 5 anni per costruire una centrale, poi ogni volta che ne parliamo qualcuno arriva e dice no, attenzione, 5 anni per la centrale, però se poi devi fare tutta la rete, perché il nucleare è un sistema, non è che metti una centrale in mezzo al nulla, e lo smaltimento, la messa in sicurezza, così ti ci vogliono almeno 8-10 anni. Di quanti anni stiamo parlando? Guardi, dal momento in cui incomincia a pensare al nucleare, al momento in cui esce il primo elettrone prodotto da una centrale nucleare, forse gli 8-10 anni sono la misura giusta. Però attenzione, noi siamo già in questa prima fase, cioè quella del pensiero di prepararci a mettere la prima pietra. E il governo aveva detto 5 anni appunto di preparazione come obiettivo mettere la prima pietra alla fine della corrente legislatura, quindi nel 2013, e poi 5 anni per costruire una centrale. Questi sono i tempi. Diciamo che il primo anno è passato e finalmente oggi vediamo il decreto, che è la vera prima pietra, perché senza questa legge, senza l'autorità che deve poi dirci quali sono le regole, senza il Ministero dello Sviluppo Economico che emanerà i provvedimenti di attuazione della legge oggi approvata, sicuramente non si poteva neanche partire. Adesso finalmente si parte in modo concreto, ci sono, diciamo, tracciate le linee guida, ci vorranno 4 anni di intensissimo lavoro se vogliamo arrivare alla posa della prima pietra nel 2013. È vero quello che chiedono alcuni ascoltatori al 349-238-6666, che noi, avendo perso quando ci fu il referendum tutte le conoscenze, eravamo anche abbastanza all'avanguardia nel settore nucleare, parlo di ingegneri, parlo appunto di skills, come dicono quelli che sanno l'inglese, dovremmo importare un po' tutto, dai tecnici, dagli ingegneri, le tecnologie? Indubbiamente sono competenze da ricostruire e ci vorrà tempo, ma insomma l'Italia ha una struttura industriale, ha le università, ha le capacità per affrontare questo tema con assoluta tranquillità. Indubbiamente quando si parla di una centrale nucleare uno ha sempre in mente il nocciolo, cioè la parte tecnologicamente più delicata, che indubbiamente sono in pochi al mondo che dal punto di vista di ingegneristico e impiantistico riescono a produrre le cosiddette parti calde, ma una centrale non è solo questo, è molto di più, c'è tutta la parte, diciamo, di involucro della centrale, che è ugualmente importante quanto le parti calde, perché deve contenere il reattore, e ci sono, diciamo, tutte le parti elettromeccaniche di servizio alla centrale, che sono altrettanto importanti. Ecco, l'Italia ha grandissime competenze in buona parte della centrale nucleare e importerà una parte del nocciolo, delle parti calde della centrale stessa. Quindi la parte, diciamo, più delicata, ma non tutta la filiera, chiamiamola così. Poi anche la centrale a turbogas, diciamo, le turbine sono importate dalla Francia o dalla Germania. O già adesso, giustamente. Visto che lei parlava di gas, concludiamo, abbiamo ancora un minuto su un tema che invece piace molto a chi non sopporta il nucleare, e mi riferisco al gas e ai rigassificatori. Come va quello di Porto Viro? L'avete fatto un primo battesimo, ma insomma, quando è che partirà? La provincia di Rovigo, lo ricordo. Ormai siamo a giorni, perché la prima nave dovrebbe attraccare ai primi di agosto. Prima nave carica di gas liquido che verrà usato per il raffreddamento del sistema, e quindi Direi che l'operatività del terminale è assicurata per la fine dell'anno, direi dal mese di novembre partiremo a pieno regime. Perché praticamente la nave attracca lì vicino tramite una condotta a gas liquido? No, attracca proprio su questa specie di isola artificiale che è il rigassificatore. Scarica il gas liquefatto che è a meno 160 gradi, quindi un gas molto freddo, e quindi le prime navi servono per raffreddare tutto il sistema, per creare la base di gas per il gas di cuscino. Dopodiché arriva il working gas, cioè il gas che verrà di volta in volta rigassificato con 4-5 navi al mese. Grazie, in bocca al lupo anche per Porto Viro. Grazie all'amministratore legato di Edison Umberto Quadrino. A voi. E un augurio di buona serata a questo punto a tutti gli ascoltatori di Radio 24 da parte di Sebastiano Barisoni. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia.